Olimpia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Chiamatela pure la Brexit pallonara. È come se i maestri del football, gli inglesi, gli inventori del gioco più popolare al mondo, non riuscissero più a stare al passo con la modernità calcistica. Ultimo di una serie di scandali, quello che ha portato all'esonero del CT Allardyce, reo di aver confessato a giornalisti spacciatisi come finti imprenditori tutti i trucchi per aggirare le regole del calciomercato britannico in cambio di cospicue tangenti. Ma prima c'erano stati anche i fallimenti in serie della nazionale dei bianchi d'Inghilterra, sia con CT inglesi sia anche con tecnici stranieri come Eriksson e Fabio Capello. Ebbene, proprio su questo tema vogliamo fare il punto oggi qui a Olimpia. A 50 anni da quel campionato del mondo del 1966 che rappresenta ancora oggi l'unica grande competizione internazionale vinta dall'Inghilterra, per giunta sul campo di casa a Wembley. E allora, nella prima parte della puntata riviviamo proprio quel mondiale d'Inghilterra del 1966, che per noi volle dire soprattutto Corea del Nord. Sentiamo perché. Le ragazze indossavano la minigonna, Carnaby Street dettava la moda e il mondo canticchiava le canzoni dei Beatles, mentre nel 1966 si inaugurava in Inghilterra l'ottava edizione della Coppa del Mondo di calcio. Il primo eroe della manifestazione è un cane, il Bulldog Pickles. È lui a ritrovare la Coppa Rimée abbandonata in un giardino di Londra, dopo che era stata rubata in una esposizione qualche giorno prima. L'Italia arriva al mondiale da favorita, ma a giocarsi quella coppa saranno Inghilterra e Germania Ovest. Per gli azzurri quello del 66 sarà un mondiale che entrerà nella storia, certo, ma solo per l'incubo che da allora evocherà ogni volta, quello della Corea. Il premondiale degli uomini di Edmondo Fabbri, arrivato alla panchina azzurra nel 62 dopo il disastro in Cile e dopo aver portato in alto il Mantova, fa sognare. Si vince con Messico, Argentina e Bulgaria. La squadra ha talenti come Rivera, Mazzola, Albertosi, Burnic, Bulgarelli, Meroni, anche se Fabbri in Inghilterra non fa giocare l'emergente Riva e non convoca gli interisti Picchi e Corso. All'esordio a Sunderland Mazzola e Barison firmano il 2-0 sul Cile, ma tre giorni dopo l'Unione Sovietica ci supera 1-0. Il ricordo di Romano Fogli, mediano del Bologna. Fu una buona partita, c'era questa ritorsione nei confronti di questa squadra dove laggiù la nazionale venne trattata insomma un po' male. E poi ci fu questa sconfitta con la Russia, perdemmo 1-0, però insomma con la Corea bastava un pari per passare il turno. La vigilia della gara con la Corea del Nord è vissuta nel segno dell'ottimismo. Eravamo tranquilli di superare il turno senz'altro, perché insomma si incontrava non la Russia ma i coreani, dove avevano beccato forte da altre parti, e noi si pensava di arrivare in fondo con la vittoria. Fabbri fa turnover per far riposare i titolari, dentro tra gli altri Landini, Guarneri, Janic, lo stesso Fogli ed anche Bulgarelli, che pure non è in perfette condizioni fisiche. Nei primi 20 minuti della gara contro la Corea del Nord gli azzurri sbagliano almeno 3 gol, ma poi proprio Bulgarelli, toccato duro, esce e lascia gli azzurri in 10. Bulgarelli poi sai, era un uomo determinante, un uomo importante per questa squadra, però appena toccato dal di dietro probabilmente non era al 100%. E al 42esimo del primo tempo accade l'inimmaginabile. Così Niccolò Carosio lo racconta a milioni di tifosi italiani. Gianni, Guarneri, Fogli, Rivera, Kim Bong Kwan, poi siamo qui. Fogli. Numero 7. Rete. Fattitoi. Fattitoi. Ha realizzato. Siamo al 42esimo del primo tempo. Ha segnato il numero 7, Fattitoi, il centrocampista. La ripresa è un inutile arrembaggio alla porta nordcoreana. Ancora Fogli. Ci parlavamo fra di noi, perché insomma, almeno fra di noi anche bolognesi, c'era Iani, c'era io. Però si parlava, diciamo, ma come? Oh, vedrai che riusciamo a fargli gol a questa squadra. Invece passa il tempo, non siamo riusciti a segnare. Finisce 1-0 per la Corea del Nord. In Italia è vergogna nazionale. E al rientro a Genova volano gli ortaggi. Arrivo in Italia, all'aeroporto di notte a Genova, qualcuno era fuori, ci aspettava con dei pomodori, ci riempì tutte le valigie di pomodori. Essere eliminati dalla Corea è stata veramente una brutta storia per noi. Per gli azzurri quindi l'umiliante sconfitta contro la Corea del Nord, per gli inglesi invece il trionfo a Wembley. Sentiamo come andò quel giorno. Vincere o perdere un mondiale per un gol mai realizzato. Accade a Inghilterra e Germania Ovest, che si sfidano nella finale dell'ottava edizione della Coppa Rimé, il 30 luglio 1966 a Londra, nel mitico stadio di Wembley. Gli uomini di Alf Ramsey vincono il girone con Uruguay, Messico e Francia e nei quarti di finale eliminano l'Argentina con un gol del centravanti Hurst e dopo l'espulsione dell'argentino Rattin. La Germania Ovest fa fuori per 4-0 l'Uruguay, ma anche qui due espulsioni tra i sudamericani favoriscono la goleada. Il Brasile campione in carica è eliminato invece al primo turno dall'Ungheria e dal Portogallo di Eusebio, attaccante potente e veloce detto la Pantera Nera. La stella di Pelé brilla ben poco, vittima del gioco duro di bulgari e magiari. I portoghesi eliminano anche la Corea del Nord, che aveva a sorpresa buttato fuori l'Italia, ma in semifinale una doppietta di Bobby Charlton ferma i lusitani. La Germania batte l'Unione Sovietica. 2-1 siglato da Haller e da Franz Beckenbauer, libero che spazia dalla difesa all'attacco. A Wembley la sfida regala emozioni. Haller segna per i tedeschi, pareggia Hurst, poi inglesi in vantaggio con Peters, ma al 90esimo Weber sigla il 2-2 che vuol dire supplementari. E al 101esimo il momento decisivo. Hurst tira una botta di destro che colpisce la traversa della porta di Tilkowski e rimbalza vicino alla linea bianca. Il guardalinee corre verso il centrocampo, l'arbitro svizzero Dienst assegna il gol, ma 40 anni di replay dimostreranno che quel pallone in realtà non è mai entrato in porta. Il ricordo di Karl-Heinz Schnellinger in campo quel giorno. Dopo 40 anni hanno sperimentato, hanno visto che questo gol non era, da pallone non era dentro. Logicamente perdono un finale così, non è bello, però purtroppo sportivamente si deve accettare. La reazione era forse qualche rabbia, però è durato poco perché si continua a giocare. Si giocava con una grande speranza di eventualmente cambiare. E ancora Geoff Hurst a mettere il sigillo sul 4-2 definitivo. Hans Moore, consultazione di cronometri, Moore avanti, fa segnare l'arbitro, un'altra palla per Hurst, ultimi minuti di entusiasmo, Hurst, rete, 4-2 per l'Inghilterra, ha segnato Hurst, lo stadio in delirio. Agitare di bandiere, canti e animo vibrante in tutti con la fine. L'Inghilterra ha battuto la Germania per 4-2 vincendo l'ottava edizione della Coppa Rimé. Ma anche sull'ultima rete inglese ci sarebbe qualcosa da ridire. Il quarto gol, che anche questo non è valido, perché erano già i spettatori in campo, c'erano già dei tifosi in campo e si giocava ancora. Per le strade di Londra e di tutta l'Inghilterra si scatena la festa. Gli inventori del football sono per la prima volta campioni del mondo. Scontato per Alf Ramsey il titolo di Sir. Credo ci fossero molti vantaggi nel giocare in casa. Il primo è quello di giocare su un terreno familiare, in secondo luogo hai il pubblico amico e poi l'ambiente in cui eravamo era molto tranquillo e questo è stato molto importante. Alla fine, comunque, semplicemente avevamo dei buoni giocatori, potenti, brillanti ed erano un unico corpo di grande intelligenza. Per quanto non si siano beati delle proprie abilità come ci si aspettava da una grande squadra, ma il loro unico obiettivo a cui hanno dato tutto l'impegno era vincere la Coppa del Mondo. E quello agli ordini di Ramsey era veramente un gruppo eccezionale. Gordon Banks in porta, la difesa retta da Jack Charlton e Bobby Moore, la grinta di Styles, la classe di Bobby Charlton ad ispirare Hunt ed Hurst, bomber di razza. Uno degli uomini simbolo di quella squadra leggendaria, Bobby Moore. Certo che vincere in finale con i tedeschi occidentali a Wembley è stato il massimo. È stata la realizzazione di un sogno a cui a un certo punto non credevamo neanche più. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Ben ritrovati a Olimpia. Nella prima parte della puntata di oggi abbiamo rivissuto i fasti del Mondiale del 1966, l'unico che l'Inghilterra riuscì a conquistare, peraltro sul terreno di casa a Wembley. E ora proviamo invece ad analizzare il momento attuale del calcio inglese col nostro ospite, uno che quel calcio lo conosce bene, avendo collaborato come preparatore atletico e mental coach con il Chelsea di Mourinho e la nazionale inglese ai tempi del Mondiale di Sudafrica 2010 sotto la gestione di Fabio Capello. Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Allora, professor Tirelli, calcio inglese che è un po' all'anno zero, come abbiamo ricostruito, perché i fatturati salgono ma calano invece i risultati, ma davvero questi calciatori inglesi sono così difficili da allenare? Qual è la cosa che secondo lei, che li ha conosciuti, li conosce da vicino, li ha anche preparati, li blocca nel momento in cui vestono la maglia bianca dei Leoni d'Inghilterra? Ma è un elemento che per loro è sia positivo che negativo al contempo, e cioè è una mancanza di emotività che caratterizza invece molte altre squadre e nazioni a volte. Cioè, quella inglese ha una mentalità molto equilibrata, e proprio per questo forse nei momenti topici, quando c'è una situazione di massimo livello, a livello di trofei, coppe del mondo piuttosto che europei, manca. Il positivo di questa attitudine proprio vista il contesto del quale stiamo parlando, è proprio il fatto che non entrano nella drammatizzazione del loro lavoro, non solo loro come giocatori ma anche il contesto intorno al quale questi giocatori vivono e giocano. La parte forse negativa è che in quei momenti non c'è quel livello giusto di stress che va oltre il fisiologico e che per molti di noi invece è necessario quando dobbiamo raggiungere dei traguardi molto molto elevati. Quindi, in poche parole, non si accendono di fronte al grande impegno con la maglia della nazionale, insomma non c'è quel picco di emotività che spesso fa anche fare lo scatto giusto alla prestazione. Beh, in effetti se guardiamo per esempio come canta l'inno la nazionale italiana, che se ne dica, possiamo criticarla o meno, ma andiamo a vedere gli sguardi, i visi, le voci dei calciatori. All'ultimo sì del nostro inno nazionale c'è una sorta di totale manifestazione di grinta, di rabbia, di sfogo, che è quasi uno sfogo di questa grande tensione. Se andiamo a vedere l'altrettanto bellissimo inno britannico, della Gran Bretagna, inglese in particolare, vediamo che c'è una pacatezza, un qualcosa che è molto più controllato. Già quello fa vedere e vince il fatto che c'è un pathos meno attivo, che però, ripeto, in nazionale è sicuramente negativo per quanto riguarda i risultati, però dal punto di vista del contesto del calcio inglese io lo ritengo molto più positivo, visti le immagini che noi possiamo analizzare e negli stadi italiani o negli stadi inglesi, e di certo vediamo la differenza. Sì, in quel caso quella mancanza di aggressività è sicuramente un valore positivo. Più fuori controllo è invece la gestione anche dell'alimentazione di questi atleti, no? Si favoleggia spesso di quanto sia difficile di togliere da queste diete birra e patatine e altre cose. Ha fatto discutere in queste settimane la dieta del tutto particolare che l'attaccante dell'Ester Vardy ha confessato di seguire per accendere sì il suo organismo. Ecco, lei che ci ha lavorato da vicino, è così difficile cambiare certe abitudini? C'è qualche aneddoto in particolare che le viene in mente? Sì, è abbastanza difficile perché si parla di una cultura che è radicata da tantissimi tantissimi anni. Ricordo per esempio in prossimità dei mondiali del 2010 in Sudafrica, quando andammo in ritiro in Austria. Fin da allora si adottò una linea abbastanza austera, decisero ovviamente i vertici, in questo caso gli allenatori, i direttori sportivi, la federazione, di eliminare, di bandire del tutto la birra e quegli alimenti che sappiamo essere potenzialmente dannosi per un calciatore. Il problema però fu che il tempo del ritiro in Austria e il tempo della permanenza in Sudafrica fu veramente lungo. Noi fummo i primi a partire in ritiro e fummo, diciamo, tra gli ultimi a giocare la prima partita. E sinceramente ho visto in questi giocatori una sorta di, chiamiamola scherzosamente parlando, di depressione, nel senso che chiusi all'interno di bellissime, meravigliose costruzioni quali camp, palestre, pur però sempre parlando di quasi prigioni dorate, perché alla fine non si può uscire, va benissimo per tutto ciò che sappiamo, però soprattutto in addizione a questo il fatto che non ci fosse neanche la possibilità di vedere le mogli, le compagne, piuttosto che gli affetti cari, e anche un minimo di quella che è la cultura di base, che è una cultura, per esempio, della birra, che per noi è come un bicchiere di vino ogni tanto. E questo sinceramente ha portato un po' di malessere, che infatti dopo la seconda partita si decise di virare un po' il tutto e dire vabbè, almeno la birra mettiamola a tavola, sapendo che sono persone comunque intelligenti e che di certo non si ubriacano la sera perché si trovano di fronte una bottiglietta di birra. Quindi insomma anche in questo caso l'approccio psicologico è importante nel gestire gradualmente questi cambiamenti pur ritenuti fondamentali, no? Sì, perché noi facciamo spesso qualcosa con una buona intenzione, quindi di base è sempre positiva, perché se l'intenzione di un'azione è positiva comunque non porterà danni. Però è vero al contempo che bisognerebbe avere un certo equilibrio rispettando quelle che sono le altre culture, perché non è detto che ciò che per noi è male, tra virgolette, sia bene per un altro. Può essere senz'altro il contrario, cioè dipende da quella che è la radice culturale di come si vive una certa situazione. In questo caso, probabilmente si è stati intelligenti nel vedere che la buona intenzione in realtà aveva provocato qualcosa che buono buono alla fine non era. In quello spogliatoio anche esempi però di grandissime professionalità e cultura calcistica, amore per questo sport, un nome su tutto mi viene in mente, David Beckham, vero? Sì, lui è stato per me uno degli atleti con i quali ho lavorato che rappresenta la massima professionalità, perché è un atleta che ha sempre dato il massimo dal primo minuto, secondo rispetto al momento dell'entrata nel campo a quando si doveva uscire per andare verso gli spogliatoi, cioè era un atleta totale. Oltretutto aveva la capacità e l'intelligenza di capire il valore dei professionisti intorno a sé, in questo caso il valore di Fabio Capello, di Italo Galbiati, di tutto lo staff che lo stesso allenatore friulano si era portato appresso. Questo perché lo dico? Perché per noi pensiamo se un giorno venissero ad allenare nella nostra nazionale italiana degli stranieri, chissà cosa accadrebbe a livello di stampa, a livello di mentalità di calciatori, no? C'è una certa supponenza, credo, ogni tanto dire ma come, devono venire questi per insegnarci il calcio quando noi siamo tra quelli che abbiamo, e loro, tra l'altro, come inglesi, si ritengono gli inventori del calcio. Ciò nonostante, l'equilibrio di cui parlavo all'inizio dell'intervista è proprio dato dal fatto che loro sono comunque aperti ai cambiamenti. Hanno avuto uno svedese, hanno avuto un italiano, vedono un rotolarsi costante e continuo di allenatori di susseguirsi, per cui anche loro saranno, eppure con tutti gli allenatori e con lo staff valido che questi allenatori si portano, hanno sempre il massimo rispetto che io credo che sia un insegnamento per il nostro calcio. E allora, professor Tirelli, potrebbe essere questa chissà la strada giusta per salvare la regina, ma anche il calcio inglese. Intanto grazie a Stefano Tirelli per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, Radio 24, e un saluto grandissimo a tutti i radioascoltatori. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.